faccia tonda, ma già gli si vede addosso il mare, le onde a rotolare su. Se mi guardi da vicino, gli somiglio un mondo e sai quanto gli parlo di continuo. Tu mi riconoscerai, perché io sono il ritratto dell'amore, ho colorato il mondo e già posso partire da un dolore e farci sopra un cuore. Ma ferro e fuoco e già ci puoi partire dal tuo sole ed arrivarmi accanto. Guardo stelle dalla terra, piedi a mollo e gli occhi in su, sembriamo due ma sono solo, guardati sei sola anche tu. Dicevo del bambino, si somiglia ancora e sai quanto mi parla di continuo, tu lo riconoscerai, perché io sono il ritratto dell'amore, c'è tutto intorno un mondo e già so cambiarlo, ma d'amore so farci sopra un fiore. Già sono il ritratto dell'amore, mi hai già fissato molto ormai, ti stai guardando in me da ore, potresti ormai soltanto, sono il ritratto dell'amore.